Il grande Gallagher. Lo può fare, ripeté Miles Crawford, stringendo la mano enfaticamente a pugno. Aspetti un minuto. Paralizzeremo l'Europa, come diceva sempre Ignatius Gallagher quando era ridotto male in arnese e segnava i punti del biliardo al Clarence. Gallagher, quello sì, era un giornalista. Quella era una penna. Sa come fece il colpo? Glielo dirò. Fu il più bel colpo di giornalista che mai si sia visto. Fu nell'81, il 6 maggio, all'epoca degli Invincibili, il delitto di Phoenix Park, prima che lei nascesse, credo. Ora le farò vedere. Li scostò per avvicinarsi alla collezione. Guardi qui, disse voltandosi, il New York World. Aveva chiesto per cablo un servizio particolare. Vi ricordate? Il professor McHugh annuì. Il New York World, disse il direttore eccitato, spingendo all'indietro la paglietta. Dove era successo? Tim Kelly. No, Cavanaugh. Joe Brady e tutti gli altri. Dove Scorticacapre portò la vettura. Tutto il tragitto, capite? Scorticacapre, disse Mr. O'Maddenburg, Fitzharris, dicono che sia suo il rifugio del vetturino laggiù al Ponte Bat. Me l'ha detto Loa. Lo conoscete? Hoppy lo zoppino, disse Miles Crawford. E c'è anche il povero Gamli laggiù, m'ha detto, al cantiere comunale, a badare alle pietre, guardiano notturno. Steven si voltò sorpreso. Gamli? Disse. Ma no! Amico di mio padre, vero? Lasciamo stare Gamli, urlò iroso Miles Crawford. Badi alle pietre che non gli scappino via. Guardate qua. Che cosa fece Ignatius Gallagher? Ve lo dico io, colpo di genio. Fece un cablo per direttissima. Avete il Weekly Freeman del 17 marzo? Bene, ci siete? Voltò con violenza pagine e pagine e piantò il dito su un punto. Prendete pagina 4. Prendiamo l'annuncio del caffè Branson. Ci siamo? Bene. Il telefono squillò. Una voce lontana. Rispondo io, disse il professore muovendosi. B è il cancello del parco. Bene. Il dito saltellava da un punto all'altro, soffermandosi, vibrando. T è la residenza del viceré. C è dove ebbe luogo il delitto. K è Knockmaron Gate. La pelle flaccida del collo gli tremava come dei bargigli. Il plastron male inamidato gli saltò fuori del panciotto e con un gesto violento lo ricacciò dentro. Pronto? Qui Evening Telegraph. Pronto? Chi parla? Sì. Sì. Sì. Da F.A.P. è la strada che percorse Scorticacapre in carrozza per il suo alibi. Incicor, Ramtown, Windy Harbor, Palmerston Park, Rellinic. F.A.B.P. Va bene? X è il bar di Davy in Leeson Street Superiore. Il professore venne alla porta interna. C'è Bloom al telefono, disse. Digli di andare al diavolo, disse prontamente il direttore. X è il bar di Davy, capite? In gamba, molto. In gamba, disse Lenian. Molto. Gliela fece arrivar calda calda, disse Miles Crawford, tutta quella fottuta storia. Incubo da cui mai ci si sveglierà. Io l'ho visto, disse orgogliosamente il direttore. C'eravamo. Io e Dick Adams, il più cordiale e fottuto cittadino di Cork che Dio abbia mai creato. Lenehan si inchinò a una forma impalpabile, annunciando: Madama, sono Adamo. Ed ero abele e abile all'alba prima di veder l'elba. La storia! Esclamò Miles Crawford. La vecchia di Prince Street fu là per prima. E ci fu per questo pianto e stridor di denti. Tutto da un'inserzione pubblicitaria. Gregor Grey aveva fatto il disegno. Questo l'ha portato in alto. Poi Paddy Hooper si lavorò Tipi, che lo assunse allo Star. Ora sta da Blumenfeld. Questa è la stampa. Questo è saperci fare. Piat è stato il padre di tutti. Il padre del giornalismo a sensazione, confermò Lenian, e cognato di Chris Cullinan. Pronto? È lì? Sì, c'è ancora. Faccia un salto. Dove lo trovate un giornalista come quello adesso, eh? Gridò il direttore. Richiuse la collezione. Intelledettamente maligente, disse Lenian a Mr. O'Maddenburg. Molto in gamba, disse Mr. O'Maddenburg. Il professor McHugh uscì dall'ufficio interno. A proposito degli invincibili, disse, avete visto che certi venditori ambulanti sono finiti in pretura? Oh sì, disse animatamente J.J. O'Molloy. Lady Dudley tornava a casa attraverso il parco per vedere tutti quegli alberi abbattuti dal ciclone dell'anno scorso e le venne in mente di comperare una veduta di Dublino. E saltò fuori che era una cartolina commemorativa di Joe Brady o del numero uno o Scortica Capre che sia. Proprio davanti alla residenza del viceré, pensate un po'. Oggi son buoni solo per il reparto Chincaglierie, disse Miles Crawford. Puff! Stampa e foro. Dove lo trovate ora un avvocato come quelli? Come Whiteside, come Isaac Butt, come O'Hagan dalla lingua d'argento, eh? Ah, tutte sciocchezze fottute. Robetta da quattro soldi. La sua bocca continuò a torcersi senza parole in curve nervose di sprezzo. C'è donna che vorrebbe quella bocca al suo bacio. Come lo sai? E allora perché lo hai scritto? Rime e ragioni. Bocca, scocca. È la bocca forse che scocca? Oppure scocca nella bocca? Deve essere così. Scocca, cocca, tocca. Brocca, filastrocca. Rime. Due uomini vestiti uguali che sembrano uguali a due. La tua pace, che parlar ti piace, mentre che il vento come fa si tace. Le vedeva tre per tre, ragazze che s'avvicinavano, in verde, in rosa, in marroncino, abbracciate l'una all'altra. Per l'aer perso, in lilla, in viola, quella pacifica oriafiamma, in oro d'orifiamma, di rimirar fe più ardenti. Ma io, vecchi, penitenti, piedi piombo, sotto il ner della notte, bocca scocca, tomba, grembo. Difendetevi un po', disse Mr. O'Maddenburg. Basta ciascun giorno. J.J. O'Molloy, sorridendo pallido, raccolse la sfida. Mio caro Miles, disse buttando via la sigaretta, voi date una falsa interpretazione a quello che ho detto. Io non assumo le parti come ora apparirà della terza professione in quanto professione, ma sono le vostre gambe di cork che vi fanno correre troppo. Perché non tirate in ballo Harry Grattan e Flood e Demostene e Edmund Burke? Ignatius Gallaher lo conosciamo tutti, è il suo principale di Chapelizod, Harmsworth, creatore dei giornali da un centesimo, e il suo cugino americano di quel foglio da fogna della Bowery, per non parlare del Paddy Kelly's Budget, del Pewees O'Currencies e del nostro vigile amico The Skibbereen Eagle. Perché tirar fuori un maestro dell'eloquenza forense come Whiteside? Basta a ciascun giorno il suo giornale. Ci ricongiunge coi bei dì che furono. Grattan e Flood scrivevano per questo giornale, gli urlò in faccia il direttore. Volontari irlandesi, dove siete ora? Fondato nel 1763, dottor Lucas. Chi avete ora che stia a confronto con John Philpot Curran? Puah! Beh, disse J.J. O'Molloy. Bush, procuratore generale, per esempio. Bush, disse il direttore. Beh, sì, Bush, è vero. Ha ancora un po' del loro sangue nelle vene. Kendall Bush, voglio dire Seymour Bush. Sarebbe giudice da un pezzo, disse il professore, se... ma non importa. J.J. mollò e si volse a Steven e disse tranquillo e lentamente: uno dei periodi più torniti che credo d'aver sentito in vita mia uscì dalle labbra di Seymour Bush. Fu in quel processo per fratricidio, il caso Childs. Bush lo difendeva. E nei padiglioni dei miei orecchi versò. A proposito, e come lo scoprì? Morì nel sonno. Ho l'altro affare, la bestia a due dorsi. Com'era? Chiese il professore. Italia, magistra artium. Parlava della legislazione circa le prove testimoniali, disse J.J. O'Molloy. Del diritto romano in contrasto con la più antica legge mosaica, la Lex Talionis, e citava il Mosè di Michelangelo in Vaticano. Ah, poche parole ben scelte, disse a mo' di prefazione Lenehan. Silenzio. Pausa. J.J. O'Molloy tirò fuori il portasigarette. Falsa calma. Una cosa molto comune. Il fattorino tirò fuori pensosamente la scatola dei fiammiferi e gli accese il sigaro. In seguito ho spesso pensato, rievocando quello strano tempo, che sia stata quell'azione minima, insignificante in se stessa, quell'accendere quel fiammifero, a determinare l'intero corso di entrambe le nostre vite. Un periodo tornito. J.J. O'Molloy riprese, plasmando le parole. Ecco che cosa disse in proposito. Quell'effigie marmorea, in musica raggelata, cornuta e terribile, della divina forma umana, quell'eterno simbolo di saggezza e profezia che, se mai cosa spiritualmente trasfigurata o trasfigurante, operata nel marmo dalla fantasia o dalla mano di scultore, meriti di vivere, merita di vivere. La sua mano affilata accompagnava ondeggiando echi e cadenze. Bello, disse subito Miles Crawford. Afflato divino, disse Mr. O'Maddenburg. Le piace? Chiese J.J. O'Molloy a Steven. Steven. Il sangue accarezzato dalla grazia dell'eloquio e del gesto arrossì. Prese una sigaretta dall'astuccio. J.J. O'Molloy ne offrì a Miles Crawford. Lenehan accese le sigarette come prima e colse il suo trofeo dicendo «Millibus gratibus». Un uomo di alta moralità. «Il professor McGinnis mi parlava di lei», disse J.J. O'Molloy a Steven. «Francamente, cosa ne pensa di quella turba di ermetici? I poeti dai silenzi opalini. Ah, e l'archimistico. È stata quella Blavatsky a dare il via. Era una bella imbrogliona. Ah, e è andato dicendo a un giornalista Yankee che lei è andata da lui nelle ore piccole a consultarlo sui piani di coscienza. McGinnis crede che lei l'abbia preso per il bavero. È un uomo di alta moralità, McGinnis. Ha parlato di me. Che ha detto? Che ha detto? Che ha detto di me? Non chiederlo. No, grazie, disse il professor McHugh, respingendo il portasigarette. Aspettate un momento. Voglio dire una cosa. La più bella esibizione oratoria a cui abbia mai assistito fu un discorso tenuto da John F. Taylor all'Associazione Storica dell'Università. Il giudice Fitzgibbon, che ora è giudice di corte d'appello, aveva parlato e l'argomento in discussione era un saggio, una novità per quei tempi, che auspicava la rinascita della lingua irlandese. Si voltò verso Miles Crawford e disse: Lei conosce Gerald Fitzgibbon, può dunque immaginare lo stile del discorso. Ora è con Tim Healy, disse J.J. O'Molloy, almeno corre voce. Nella commissione amministrativa di Trinity College. Sta con una bella cosina in gonnellino, disse Miles Crawford. Bene, e poi? Fu il discorso, badate, disse il professore, di un oratore consumato, pieno di altera cortesia, che riversava in una dizione castigata, non dirò le fiale della sua collera, ma le contumelie di un altezzoso su quel movimento nuovo. Allora era un movimento nuovo, eravamo deboli e pertanto senza valore. Serrò un momento le lunghe labbra esili, ma ansioso di continuare, portò agli occhiali la mano dalle dita aperte e con pollice tremante e anulare che toccava lievemente gli occhiali neri, li mise di nuovo a fuoco. Improvviso. In tono feriale si rivolse a J.J. O'Molloy. Dovete sapere che Taylor era uscito apposta dal letto per venir lì. Che si fosse preparato il discorso, non lo credo, perché non c'era neppure uno stenografo in sala. Il suo viso scuro e magro aveva tutto intorno una barbaccia arruffata. Portava una sciarpa aperta di seta bianca e nell'insieme aveva l'aria, per quanto così non fosse, di un moribondo. Il suo sguardo si volse a un tratto, ma lentamente, dal volto di J.J. O'Molloy a quello di Steven, e poi si abbassò a un tratto a terra in cerca di qualcosa. Il colletto opaco appariva dietro la testa curva, sporcato da quel po' di capelli che aveva ancora. Sempre come cercasse qualche cosa, disse: «Quando il discorso di Fitzgibbon fu finito, John F. Taylor si alzò a rispondere. In breve, per quel che mi ricordo, le sue parole furono queste». Alzò energicamente la testa. Il suo sguardo si fece ancor più pensieroso. Sciocchi molluschi nuotavano qua e là nelle lenti spesse, cercando una via di uscita. Cominciò. «Signor Presidente, signore e signori, grande è stata la mia ammirazione nell'ascoltare le osservazioni dirette ai giovani d'Irlanda un momento fa dal mio dotto amico. Mi sembrava di essere stato trasportato in un paese lontanissimo da questo paese, in un'era lontana da questa era, e di essere nell'antico Egitto e di ascoltare il discorso di qualche gran sacerdote del luogo rivolto al giovane Mosè». I suoi ascoltatori rimasero con le sigarette a mezz'aria, con il fumo che saliva in fragili steli e fioriva col suo discorso. «I nostri fumi tortuosi, nobili parole attese. Attenzione, vuoi provarti anche tu?» E mi sembrava di sentir la voce di quel gran sacerdote egizio alzarsi con accenti di analoga alterigia e di analogo orgoglio. Sentivo le sue parole e il loro significato mi fu rivelato. «Dai, padri!» Mi fu rivelato che quelle cose son buone che pure sono corrotte, le quali se non fossero estremamente buone, e a meno che non fossero buone, non potrebbero essere corrotte. Al diavolo! Questo è Sant'Agostino! Perché voi ebrei non volete accettare la nostra cultura, la nostra religione e la nostra lingua? Voi siete una tribù di pastori nomadi. Noi siamo un popolo possente. Voi non avete né città né ricchezza. Le nostre città sono alveari umani e le nostre galere, triremi e quadriremi, cariche di ogni sorta di merci, solcano le acque del globo finora conosciuto. Voi siete appena usciti da condizioni di vita primitive. Noi abbiamo una letteratura, un sacerdozio, una storia secolare e una costituzione. Nilo, bambino, uomo, effigie. Sulla riva del Nilo le matrone si inginocchiano. Culla di giunco, un uomo agile in combattimento, corna di pietra, barba di pietra il cuore. Voi invocate un idolo locale e oscuro. I nostri templi, maestosi e misteriosi, sono le dimore di Iside e Osiride, di Oro e Ammone Ra. Vostri sono la schiavitù, il terrore e l'umiltà. Nostri il tuono e i mari. Israele è debole e pochi sono i suoi figli. L'Egitto è un esercito e terribili sono le sue armi. Vagabondi e braccianti siete chiamati. Il mondo trema al nostro nome. Un sordo rutto di fame tagliò a metà il suo discorso. Alzò arditamente il tono di voce a coprirlo. Ma signore e signori, se il giovane Mosè avesse ascoltato e accettato quel punto di vista, se avesse chinato la testa e chinato la volontà e chinato lo spirito davanti a quel monito arrogante, non avrebbe mai portato il popolo eletto fuori della casa della schiavitù, né seguito la colonna della nuvola durante il giorno, non avrebbe mai parlato con l'Eterno in mezzo alle folgori sulla vetta del Sinai, né sarebbe disceso con la luce dell'ispirazione rifulgente sul volto e recando tra le braccia le tavole della legge, incise nella lingua dei fuorilegge. Aveva finito e li guardava, gustando un momento di silenzio.